Rottweiler di natura o molto di più. Pompo più fatti di bassi alti come una crew. Il mio rap punta alle stelle, usa un suono ribelle. Il tuo rap non serve, è rifatto come le modelle. Ignora chiunque, impara a essere sveglio. Ora zappa la terra che zappa il tuo cervello. Resti in strada a casa e per l'ignoranza fra scopi con le Barbie e pensi di essere papà. Non ti vendi per i soldi ma ti vendi per i debiti. E per comprarti i miei beat hai fatto tanti prestiti. Incoerenti, quindi stendi te stesso. Cura di tesoro perché ti vedo perso. Resto in silenzio, io osservo il paesaggio. Sono un ragazzo tremendo e testardo. Parlo e faccio di mestiere il macellaio. Posso essere un sucker ma due volte non sbaglio. Tutti mi dicono di essere più sveglio. Tutti mi dicono di dare sempre il meglio. Tutti mi dicono di far bella figura. Tutti mi dicono attenta alla guaiura. Di essere più sveglio. Tutti mi dicono di dare sempre il meglio. Tutti mi dicono di far bella figura. Tutti mi dicono attenta alla guaiura. Faccio ridere la gente, comico come Arnold. L'ho scritto vaffanculo sul culo dell'uomo ragno. Sparlo come non ho mai parlato. Porto in fondo il mio stile perché non è limitato. Molti troppi hanno provato a imitarmi, ma gli occhi congelati, ero troppo avanti di secoli. E non si tratta di anni, persino angeli e demoni vogliono incastrarmi. Tutti mi dicono di essere più sveglio. Tutti mi dicono di dare sempre il meglio. Tutti mi dicono di far bella figura. Tutti mi dicono attenta alla guaiura. Tutti mi dicono di essere più sveglio. Tutti mi dicono di dare sempre il meglio. Tutti mi dicono di far bella figura. Tutti mi dicono attenta alla guaiura. Di essere più sveglio. Tutti mi dicono di dare sempre il meglio. Tutti mi dicono di far bella figura. Tutti mi dicono attenta alla guaiura. Tutti mi dicono di essere più sveglio. Tutti mi dicono di dare sempre il meglio. Tutti mi dicono di far bella figura. Tutti mi dicono attenta alla guaiura. Tutti mi dicono attenta alla guaiura. Tutti mi dicono attenta alla questura.